Io non ho molto, molto da aggiungere. Il mio approccio personale, anche prima, è stato un po' negativo ed effettivamente ne ho subito da questo viaggio, che è stato, come dico, molto affascinante, anche un'impressione negativa per appunto la mancanza di cose che avremmo dovuto trovare e non abbiamo trovato. In realtà è stato, come ha detto anche Michele, un viaggio che poi ci ha regalato anche delle piacevolissime sorprese, soprattutto di carattere gastronomico. Ecco, se c'è qualcosa che, nonostante ogni tanto qualche rana turca o pesce gatto del Trasimeno, che non manca, è sicuramente una spiccata cultura gastronomica, soprattutto quando si arriva nelle province emiliane. Modena, Reggio Emilia, Parma, sono territori effettivamente molto ricchi, che hanno saputo anche preservare una certa cultura e che la offrono anche in modo molto, molto accattivante. Sono sicuramente anche molto, molto dotati da questo punto di vista. Lì sono legati anche spesso i ricordi affettuosi del viaggio, anche perché sono state forse le tappe più vicine a quello che immaginavamo essere questo viaggio. Anch'io non ho molto, molto altro da aggiungere, se non che merita provare a vedere il fiume da un'altra angolazione, che non è quella dei ponti che lo attraversano, è proprio quella di vederlo dalla sponda, se non addirittura attraversarlo con una barca, perché si scopre, è banale dirlo, si scopre una dimensione diversa, un tempo diverso, ma anche un completo modus vivendi che è altro rispetto a quello a cui siamo abituati spostandoci in macchina. Noi, come diceva Michele, siamo arrivati spesso impreparati. Siamo arrivati impreparati perché avevamo percorso poi in macchina, eravamo andati a vedere certe zone, passando in macchina qui e qui sono 10 chilometri, cosa ci vorrà, poi andiamo di qua, e invece no, cioè le tappe erano estremamente lunghe, erano estremamente difficoltose, cioè si inizia a capire che il tempo del viaggio è un tempo che ha dei ritmi estremamente diversi da quello da cui siamo abituati noi. E questa è stata forse la parte più avvincente del viaggio, cioè ogni tappa era una tappa conquistata. Era davvero arrivare a sera, attraccare, fermarsi, iniziare a scrivere il blog, le proprie memorie, le proprie impressioni di viaggio, aveva un sapore completamente diverso. Intanto qui ci siamo arrivati e questa è già stata una buona cosa.